Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Il protagonista della nostra storia di oggi non è esattamente una brava persona, è un delinquente incallito, un assassino dal sangue freddo. È un uomo che ha vissuto la gran parte della sua vita in galera e quando era libero commetteva reati a più non posso. Ma è anche un uomo che ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta a quello stesso ambiente criminale del quale faceva parte. Il suo nome è Joe Valachi e noi oggi raccontiamo la sua vicenda perché lui è stato il primo pentito di mafia della storia. È un pentimento molto particolare che va raccontato nella sua evoluzione, ma che è stato fondamentale perché le sue dichiarazioni hanno permesso agli investigatori dell'epoca non solo di scoprire i responsabili di molti casi irrisolti e quindi di arrestarli, ma soprattutto di venire a conoscenza di un'organizzazione criminale estremamente articolata e diffusa, delle sue regole e dei suoi codici che fino a quel momento erano sconosciuti e dei quali non si immaginava nemmeno l'esistenza. Stiamo parlando, e mi viene un brivido a dirlo, di Cosa Nostra. Joseph Michael Valachi si chiamava così prima di intraprendere la sua carriera nel crimine. Nasce il 22 settembre del 1903 nel ghetto italiano di Harlem, il quartiere nero di New York nella parte alta di Manhattan. Ma lui non è nero, lui ha origini italiane e, come racconta il suo cognome, i suoi genitori Maria e Domenico Valachi arrivano negli Stati Uniti da Napoli. Sono poveri emigranti in cerca di fortuna come migliaia di altri loro connazionali. Sbarcano ad Ellis Island e la chiamavano l'isola delle lacrime. Vengono accolti dalla Statua della Libertà carichi di speranza. L'hanno sognata l'America, ora si trovano ad affrontarne la realtà che ha poco a che fare con il sogno americano che avevano sperato di trovare. Joe è il secondo di sei figli e la sua vita è una lotta fin dall'inizio. La compagna della sua infanzia è la povertà. Lui è il tipico italo-americano nato e cresciuto a Harlem, dove la gente combatte tutti i giorni contro la fame. Ma non solo. Gang di delinquenti girano per le vie del ghetto italiano facendosi pagare il pizzo, una percentuale dei loro miseri guadagni in cambio della cosiddetta protezione. E se non pagano, la loro attività viene distrutta. My chest. You could be the rook on the pawn, but if you have a strategy that's best, you could be the king or in this case the don. It's easy to get knocked out of the game, depending on which way you wanna play. You got to have eyes in the back of your head. Now that we have that out of the way, rev up the Lincoln and let's get the drinkers of Capito. Let's go to Nicoletti's, cause they make some spaghetti sauce. Domenico Valachi paga un dollaro alla settimana all'organizzazione criminale italiana che infesta le strade dei quartieri poveri di New York. È la cosiddetta mano nera, ma regge a fatica la brutalità e il degrado di quella vita che lui si era immaginato tanto diversa. Così inizia a bere, poi torna a casa ubriaco e lì sono botte per la moglie e per i figli. È arrabbiato con la vita, con il destino, con se stesso per questo sogno infranto. Insomma, il piccolo Joe subisce tutta la trafila purtroppo ben nota di queste situazioni di disperazione, di ignoranza e di povertà. Sua madre ha sempre almeno un occhio nero, se non peggio, e la violenza diventa l'unico modo che lui ha di rapportarsi con il mondo. ha una passione, un unico interesse che lo tiene occupato per un po'. È abilissimo nel costruire strani mezzi di trasporto, utilizzando dei pattini e delle cassette di legno dove lui e i suoi amici si infilano per lanciarsi lungo le strade tortuose di Harlem. È così che si conquista il soprannome di Joe Cargo, che lo accompagnerà tutta la vita. Ma le sue invenzioni non sono sufficienti a distoglierlo da quella che è un'esistenza disastrata. James Flynn, investigatore dell'FBI, che avrà una parte molto rilevante nella vicenda di Joe Valachi, racconta. Viveva in un freddo appartamento di Harlem. Non c'era riscaldamento, tranne una piccola cucina a carbone. Naturalmente non avevano i soldi per comprare il carbone che gli serviva, e allora lo rubavano. Joe voleva qualcosa di più, ma in quei giorni non c'era un modo migliore per lui del crimine. Quello che il giovane Joe Valachi vede ogni giorno, la violenza e la povertà di una famiglia distrutta e senza speranza, lo porta a maturare una decisione. Lui non farà la fine di suo padre, che si fa trasportare dalla vita. Lui intende guidarla la sua esistenza, avere in mano il volante di quel cargo che è il suo soprannome. Vuole di più e l'unico modo che conosce è il crimine. Ha solo 18 anni quando entra a far parte di una banda specializzata in furti che si fa chiamare The Minute Man, perché hanno una particolare abilità nello scappare proprio all'ultimo minuto. La loro tecnica è semplice: rompono una vetrina, arraffano più che possono e scappano a bordo della loro auto, di solito proprio mentre stanno arrivando i poliziotti. È quasi una sfida, come a dire: noi siamo i più forti, non ci prenderete mai. Joe, che ama le macchine, fa l'autista. È piccolino di statura, ha poco più di 1,50 m, e non predilige le azioni violente. A lui piace guidare e lo fa benissimo. È un guidatore veloce e scaltro, tanto che la gang dei Minutemen mette a segno moltissimi colpi e riesce quasi sempre a farla franca. Ogni tanto li beccano, ma li rilasciano quasi subito, perché comunque per ora si tratta sempre di furtarelli. Ricordiamo che siamo a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30. Gli Stati Uniti stanno vivendo una profonda crisi. La Grande Depressione è un terreno fertile per la criminalità e la malavita che si stanno organizzando. I soldi che circolano sono tanti, con il proibizionismo, il gioco d'azzardo, la prostituzione, e questi soldi fanno gola a tutti i delinquenti come Joe Valachi, che vogliono di più, che aspirano a entrare a far parte delle grandi organizzazioni malavitose. Lui vuole fare il salto, vuole fare carriera, passare dalle piccole gang di quartiere alla criminalità delle grandi famiglie. E l'occasione, neanche a dirlo, gli si presenta in prigione, luogo dove si possono fare le conoscenze giuste. Mentre si trova ospite delle patrie galere nella famosissima prigione di Sing Sing, Joe conosce Vincent Petrilli, un affiliato delle grandi famiglie malavitose Lucchese e Reina. Petrilli gli prospetta l'ingresso nel cartello del crimine italo-americano. Joe Cargo Valachi sa sparare bene ed è uno che sa tenere la bocca chiusa. Ha dimostrato in varie occasioni che di lui ci si può fidare. Ma entrare nelle grandi famiglie è un affare serio. Si deve sottostare a una prova, la peggiore: l'omicidio. Ronald Goldstock, capo della task force del crimine organizzato di New York, spiega il motivo di questa prova drammatica. L'assassinio di qualcuno come prova d'ingresso aveva varie motivazioni, ma credo che la più importante fosse il fatto che un omicidio prevedeva la pena di morte senza possibilità di grazia, e di conseguenza un affiliato della mafia era legato alla famiglia per tutta la vita. Attenzione, perché qui stiamo parlando di Lucchese e Reina, i nomi chiave della mafia americana in quegli anni. Essere parte di una struttura così complessa come quella delle famiglie mafiose non è semplice, e passa inevitabilmente attraverso il crimine peggiore, quello senza via di ritorno, l'omicidio. La legge della mafia impone ai propri affiliati una prova di fedeltà che ha una sua precisa ragion d'essere. Quando hai ucciso, sei un assassino, e per il resto della tua esistenza chi entra nell'organizzazione non ha un biglietto di ritorno. non puoi ritornare alla vita normale. E inoltre, con la prova dell'omicidio si evita uno dei pericoli più grandi nei quali una famiglia mafiosa possa incorrere, quello degli infiltrati. Molti poliziotti e molti agenti dell'FBI tentano la via dell'infiltrazione nelle fila delle cosche mafiose, ma l'ostacolo con l'omicidio come prova di fedeltà crea uno spartiacque invalicabile. Un poliziotto, per quanto infiltrato, non può commettere un assassino. Le famiglie con questo sistema sono al sicuro. Giovalacchi non ha limiti, non ha una morale che gli imponga di ribellarsi a questa regola, anzi, basta che gli dicano chi deve fare fuori, lui è pronto. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando oggi la storia di Giovalacchi, criminale statunitense che inizia la sua professione del delinquere nell'America degli anni 20 e 30. È un figlio di immigrati italiani, ha una storia di povertà e degrado alle spalle. Inizia la sua carriera criminale in piccole bande di ladri, ma sogna, spera di riuscire a entrare a far parte delle famiglie, quelle dei boss mafiosi che imperversano a New York e che fanno soldi a palate con il racket, l'estorsione, l'alcol venduto di contrabbando durante il proibizionismo. Joe riesce a contattare alcuni esponenti della famiglia lucchese perché vuole assolutamente far parte del loro giro, il giro grosso. Ma per entrarci deve sottostare a una prova, la più terribile di tutte. Deve commettere un omicidio. Joe non ha problemi, la sua morale non gli impedisce di compiere questo atto contro l'umanità, non gli importa, accetta. Gli dicono che deve fare fuori uno scagnozzo di una famiglia rivale. Lui si apposta, lo segue, lo uccide a sangue freddo. La prova della sua fedeltà l'ha data, ora può essere considerato a tutti gli effetti un affiliato e può entrare a far parte della sua nuova famiglia. Naturalmente lui si trova alla base della piramide di questa organizzazione impeccabile. Le famiglie mafiose che si dividono New York hanno un vero e proprio organigramma e ciascuno al suo posto. E Giovalacchi sa molto bene di essere un soldato semplice di quell'esercito, sa qual è il suo posto e quali sono le sue funzioni. Sa anche che i capi dei capi si fanno la guerra e capita spesso che da un boss si passi all'altro. Lui cerca di non esporsi mai, neanche quando si innamora della figlia del boss, Gaetano Reina, Mildred. Attenzione, lui è un pesce piccolo, ma all'ardire di uscire dalla sua sfera di competenza osa chiedere la mano di quella ragazza che ha un nome importante tra le famiglie. E c'è qualcuno che intercede per lui, come racconta in un documentario dedicato alla vita di Giovalacci John Siegenthaler, responsabile del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Joe è un piccolo pesce. Il suo possibile futuro suocero invece è un pesce grosso. Ma lui vuole sposare la figlia. E secondo lui la famiglia non deve entrarci. Ma Vito Genovese va dalla famiglia e dice loro: prendetelo pure, è un bravo uomo. Take him. He's a good man. Beh, si potrebbe discutere sul concetto di bravo uomo che hanno i boss mafiosi. Comunque a difendere Giovalacchi è Vito Genovese, uno dei capi della potente famiglia genovese, conosciuta anche come famiglia Luciano, che nel corso degli anni viene guidata da personaggi del calibro di Lucky Luciano e Frank Costello. Quindi Vito Genovese depone in favore di Giovalacchi, dice che è un bravo uomo che può sposare la figlia di Gaetano Reina, la sua adorata Mildred. I due si sposano nel 1932. Joe continua a essere un semplice soldato della famiglia, fa affari, apre anche un ristorante, ogni tanto compie una rapina, ma è soprattutto quello che va a riscuotere i soldi, e se la gente non vuole pagare non ha mezze misure. Ma tutto sommato non è uno che fa carriera, si può quasi definire un fallito di mafia, e allora appena può si mette in un giro che è sicuro gli porterà enormi guadagni: il giro della droga, il nuovo business, un business che anni prima il boss Frank Costello aveva vietato tassativamente perché lo aveva ritenuto troppo pericoloso. Vito Genovese intercetta l'attività sgradita alle famiglie di Giovalacchi. Forse una soffiata da qualche altro scagnozzo come lui lo blocca, gli sequestra tutto il guadagno che naturalmente si tiene per sé e gli intima di non farlo mai più. ma Joe non ci pensa proprio. La posta è troppo alta ed è forse la prima volta che lui sta facendo qualcosa da solo, senza che qualcuno gliel'abbia ordinato. Così prosegue la sua attività di spacciatore finché non incappa esattamente nei guai che temevano i suoi boss. Nel 1956 viene arrestato per spaccio di eroina. È dai tempi di Sing Sing che Joe non passa del tempo dietro le sbarre. Non ci rimane molto e non gli piace affatto, ma poi quando esce se ne dimentica e ricomincia con i suoi traffici. Anche Vito Genovese, attirato dal facile guadagno che proprio Joe gli ha fatto conoscere, è entrato nel frattempo nel giro dell'eroina, ma è un giro che non porta bene a nessuno dei due, perché nel 59 sia Genovese che Valaci vengono arrestati e condotti nella stessa prigione ad Atlanta, dove dividono addirittura la stessa cella. Soldato scelto nella guerra perdente, le cattive compagnie non sono una scusante, le cicatrici sono tante profonde. Ditemi come si fa ad imparare a decidere. Nei giorni della detenzione nel carcere di Atlanta con Vito Genovese, Joe Valachi si convince che il capomafia stia tramando contro di lui. È una sensazione che matura da sola, senza un motivo in particolare, ma Joe sente di doversi guardare le spalle. In carcere circolano delle brutte voci su di lui. Joe viene addirittura soprannominato Due Facce, perché si dice che sia diventato un informatore della polizia. Beh, se lo è, non ha certo parlato della famiglia, lo sa bene che con quelle persone non si scherza. Semmai ha fatto qualche nome legato al traffico di eroina, nella speranza che gli venga ridotta la pena di 15 anni che gli pesa sul capo. E poi accade un fatto destinato a cambiare tutto e a velocizzare gli eventi. Vito Genovese chiede a Joe Valachi un colloquio a due per discutere di lealtà. Genovese parla per allegorie, dice che bisogna eliminare la mela marcia che si trova in mezzo a tutte le altre mele sane prima che renda marce anche loro. Valachi si convince che la mela marcia sia lui, che Genovese lo stia minacciando apertamente. Poi Genovese si avvicina per abbracciarlo. James Flynn, agente dell'FBI che segue il caso Valachi, racconta di quel abbraccio terribile. Vito Genovese chiese a Joe Valachi di abbracciarlo, che è il modo con il quale i boss mafiosi dimostrano a qualcuno che intendono ucciderlo. E poi lo baciò sulle labbra, il bacio della morte. Joe Valachi ha paura. Con Vito Genovese non si scherza. Il bacio della morte, il segnale della condanna, è un marchio che oramai non si può cancellare. Joe si sente finito, non può scappare perché i suoi nemici sono all'interno della prigione. Chiede di parlare con le autorità del carcere, spiega che è in pericolo, pretende l'isolamento, ma non gli viene concesso perché quando gli chiedono chi lo minacci, lui non può dirlo, si rifiuta di parlare. Il 22 giugno del 1962, durante una delle rare passeggiate nel cortile della prigione, Valachi scorge due uomini che lo osservano fumare e che si avvicinano a lui minacciosi. Immagina subito che siano due sicari di Genovese e decide di agire per primo. Afferra un tubo di metallo che trova per terra e fracassa il cranio di uno dei due, uccidendolo sul colpo. Questa volta Joe Valachi rischia la sedia elettrica. Non ci sono dubbi su questo omicidio, si è svolto sotto agli occhi di tutti. Ma ancora non sa che c'è chi si sta occupando da parecchio tempo di lui. Se l'opinione pubblica americana non presta molta attenzione al crimine organizzato perché non ne conosce nemmeno l'esistenza, è stata invece istituita da una decina d'anni una commissione di indagine che studia i fenomeni legati alla criminalità, che appaiono in apparenza slegati tra loro, ma in realtà fanno presagire una fitta rete segreta e organizzata. La commissione ha girato il paese in lungo e in largo, percorrendo oltre 80.000 chilometri e intervistando migliaia di persone, partecipando partecipando a decine e decine di processi e giungendo alla conclusione che debba esistere una sorta di sindacato del crimine che gestisce le bische clandestine, il racket delle scommesse e il giro della prostituzione. Si immagina che si tratti di un gruppo di persone provenienti da altri paesi, quindi estranee alla nazione americana, ma di più non si sa. È indispensabile che qualcuno che sia parte integrante di quella sorta di rete invisibile del crimine racconti di che cosa si tratti, e gli investigatori sono abbastanza convinti che quella persona possa essere Joe Valachi. Vedremo tra poco se questo corrisponde a verità. La storia che vi stiamo raccontando oggi è quella di un assassino, di un uomo dal sangue freddo che non esita a sparare, uccidere, seminare morte. È un uomo che per gran parte della sua vita è un affiliato delle cosche mafiose, uno spacciatore di eroina, un vero delinquente. Però quest'uomo è anche il primo pentito di mafia. Il suo nome è Joe Valachi. Abbiamo visto come Joe sia riuscito a diventare membro di una delle famiglie più potenti della mafia newyorkese, quella dei Lucchese di Lucky Luciano, e di come sia finito in galera più volte. Beh, ora si trova nel carcere di massima sicurezza di Atlanta, dove divide la sua prigionia con uno dei boss mafiosi più potenti e temuti, Vito Genovese. Entrambi si trovano dentro per spaccio e commercio di eroina, un business nel quale la mafia della vecchia guardia, per intenderci quella formatasi negli anni 20 e 30, non è mai voluta entrare, ma che invece negli anni 50 diventa la fonte di guadagno maggiore delle famiglie. Joe Valachi, pur essendo un pesce piccolo, è entrato in conflitto con Vito Genovese. Probabilmente ha tentato di barattare alcuni anni della sua pena in cambio di alcune informazioni. Sta di fatto che i Genovese lo vogliono morto. Joe uccide in carcere davanti a tutti un uomo di Genovese che gli si era avvicinato con fare minaccioso, e da quel momento per lui si apre un capitolo nuovo nella sua esistenza. Di fronte a sé ha due alternative: o la sedia elettrica oppure la collaborazione con l'FBI. Sono anni che gli investigatori americani cercano di trovare delle connessioni tra gli eventi criminosi che infestano il paese e sospettano esista una fitta rete di personaggi non meglio identificati a capo di una organizzazione malavitosa. Ma non ne sanno nulla di più e soprattutto non hanno prove. Forse questa è la volta buona. Joe Valachi sembra essere il personaggio giusto. È sicuramente un affiliato di qualche cosca, di sicuro conosce parecchi uomini importanti del mondo della criminalità organizzata, però è un personaggio di secondo piano, quindi ha meno da perdere, è più facile che parli. E ora poi che ha ucciso un carcerato davanti a decine di testimoni, la sua prospettiva è quella di sedersi sulla sedia più scomoda del paese, la sedia elettrica. Allora è probabile che si decida, ma adesso ascoltate questa voce. This is a day of affirmation. A celebration of liberty. We stand here in the name of freedom. La voce che state sentendo è quella di un uomo politico tra i più influenti della nazione americana, è la voce di Robert Kennedy. Dal 1961 Robert Kennedy è a capo del Dipartimento di Giustizia a Washington ed è dal suo insediamento che sta concentrando parte delle forze dell'FBI per svelare i meccanismi mafiosi. Quando viene informato della situazione nel carcere di Atlanta e della possibilità che Joe Valachi parli, Robert Kennedy si attiva subito. Lo fa trasferire immediatamente da Atlanta, dove ormai Valachi rischia la vita, e lo porta in gran segreto nella prigione di Worcester. Poi, successivamente, nel 63, Valachi viene ancora trasferito, questa volta nella prigione di massima sicurezza di Fort Monmouth, nel New Jersey. È qui che per tre mesi, per tre ore al giorno e per quattro giorni alla settimana, l'investigatore dell'FBI James Flynn raccoglie le testimonianze di Joe Valachi. Valachi inizia a fare i nomi di alcuni spacciatori importanti, ma Flynn capisce che c'è molto di più. Valachi è una vera miniera d'oro dalla quale estrarre più informazioni possibile sulle organizzazioni malavitose che tengono in scacco le principali città del paese. Joe Valachi acquista fiducia in se stesso, ormai è sotto la protezione dell'FBI, è in un carcere di massima sicurezza. Di certo non può più tornare indietro alla vita che faceva prima e quindi si convince sempre più che quello che sta facendo è una buona cosa. Soprattutto è l'unica. Capisce che la vita che ha condotto fino a quel momento non è certo qualcosa di cui andare fieri, ma soprattutto è la prima volta che fa qualcosa lui, decidendo in prima persona. Non c'è un boss sopra di lui che gli dice fai questo, fai quello. È lui che sta prendendo la decisione di vuotare il sacco. Probabilmente non lo fa perché si è redento, ma perché vuole vendicarsi di tutti quelli che in passato non lo hanno mai considerato più di tanto. Se nella famiglia lui non era nessuno, qui è qualcuno. È l'unico che conosce la verità sull'organizzazione criminale chiamata mafia. È l'unico che sa nomi e cognomi di tutti, che conosce i meccanismi di quella fitta rete che avvolge il paese e lucra su tutte le attività legali e non. Conosce i nomi dei poliziotti corrotti. Finalmente si sente importante. Questo è il suo momento. L'intuizione di Bob Kennedy e degli investigatori dell'FBI è grandiosa. Non solo si parla di crimine organizzato per il controllo di un determinato territorio, di minacce, intimidazioni, estorsioni. Qui si sta parlando di qualcosa di molto più grosso, che ha in pugno il mercato della prostituzione, della droga, del gioco d'azzardo, fino ad arrivare a infiltrazioni nell'economia legale. Mentre nella culla della mafia, l'Italia, il pensiero comune della politica e della gente, che si tratti di delinquenti che si ammazzano tra di loro, Kennedy immagina e ci prende in pieno una mafia imprenditrice che diventa un peso per la collettività e per l'economia nazionale. Sembra di sentire un giornale radio dell'altro ieri. Ed è per questo che prende una decisione, Kennedy, una decisione coraggiosa e assolutamente inaspettata. Le dichiarazioni di Joe Valachi devono essere pubbliche. Il popolo americano deve ascoltare, essere informato. Da questa decisione nasce un vero e proprio caso mediatico. Nell'ottobre del 1963 Joe Valachi testimonia davanti alla commissione del Senato presieduta dal senatore dell'Arkansas John McClellan, passata alla storia come la commissione McClellan, e la sua testimonianza viene ripresa dalla televisione. Nei giorni precedenti all'interrogatorio tutti i mezzi di informazione parlano del grande evento, i telegiornali realizzano dei veri e propri promo sulla vicenda. La nazione e tutto il mondo hanno la possibilità di ascoltare le investigazioni sul crimine della commissione McClellan. Il generale Robert Kennedy fa un quadro drammatico della situazione della mafia nel nostro paese, che controlla la prostituzione, la droga, il gioco d'azzardo, il racket delle estorsioni per un guadagno di molti miliardi di dollari. Questo genere di investigazioni attira sempre un grande pubblico, ma questa in particolare perché si tratta della prima apparizione in pubblico di Joe Valachi, le cui confessioni all'FBI gli sono valse una taglia di $100,000 da parte della mafia. Joe Valachi, con una taglia di $100,000 sulla testa che gli è stata messa da Vito Genovese in persona, ha la vita appesa a un filo. Ma lui è relativamente tranquillo, nessuno è difeso e controllato a vista come lui in questo momento, ed è sicuro che le sue dichiarazioni, che si preannunciano esplosive, gli varranno l'attenzione da parte del governo. In cuor suo spera nella grazia del presidente per i servigi resi alla nazione e anche che lo includano in un programma di protezione come molti altri testimoni scomodi. Ed eccolo quindi pronto a parlare. L'audio originale trasmesso in diretta dalle televisioni di tutta l'America inizia con una domanda del senatore McClellan, che chiede a Valachi quale sia il nome dell'organizzazione malavitosa della quale lui fa parte. Ascoltate la risposta, è un momento storico perché è la prima volta che viene pronunciato quel nome. What is the name of it? It is Cosa Nostra in Italian. Cosa Nostra in Italian. Our thing and our family in English. Cosa Nostra. Come si chiama? Chiede il senatore. E Valachi risponde proprio così. Cosa Nostra in italiano. E poi traduce il significato. È un momento cruciale. è la prima volta che il termine Cosa Nostra varca i confini del mondo mafioso per essere conosciuto da tutti. Joe Valachi si aggiudica un posto nella storia e riscatta anni di vita dedica al delinquere, permettendo a tutti di conoscere una realtà che poteva solo essere intuita. L'omertà subisce un duro colpo, i suoi racconti si dipanano nell'arco di 3 giorni, sono ricchi di particolari, di informazioni preziosissime. Joe Valachi parla, descrive un'organizzazione estremamente articolata e ricca di regole, di leggi e di riti. He went on to explain that you live by the gun and by the knife and you die by the gun and by the knife. La prima cosa che ti spiegano è che tu vivi vicino alla pistola e al coltello e muori vicino alla pistola e al coltello. The gun and the knife è la prima legge di Cosa Nostra, la prima regola che Joe Valachi espone. È una regola che contiene in sé tutta la filosofia, se così possiamo chiamarla, dell'organizzazione malavitosa. Ma Joe è un fiume in piena, racconta in particolare il rito di iniziazione, quello che ti fa diventare a tutti gli effetti un soldato della mafia, un affiliato per la vita. Descrive minuziosamente il rito. Let's demonstrate just what you did. In other ways, not his piece of paper. This what? Piece of paper is burning. Paper's burning. Light it. Yeah? And then in your hand you say, well, again they give you words in Italian, but I know what it meant. In other words, while you were repeating the words, you were burning this, the paper. Right, this is the way I burn if I expose this organization. Il rito della carta, un foglio di giornale viene appallottolato e messo nelle mani dell'iniziato, poi gli viene dato fuoco. Mentre il boss pronuncia alcune parole in siciliano, la carta brucia, ma l'iniziato deve resistere. Joe Valachi racconta con dovizia di particolari altri riti di Cosa Nostra, come il rito del sangue. Then he picks your finger. Ooh, ooh. The Godfather makes a little blood come out. In other words, that's the express the blood relation supposed to be like. Una goccia di sangue dal dito dell'iniziato e una da quella del boss. Il sangue si mescola ed ecco che il patto è suggellato. Ma in questo audio, che purtroppo si sente male, poi Joe Valachi parla un inglese che è più uno slang e quindi è più difficile cogliere le singole parole, ce n'è una che fa tremare. Per la prima volta lui indica il boss con un nome che a noi oggi è molto familiare, ma in quel momento ancora nessuno lo ha mai sentito pronunciare. The Godfather. Il padrino. La scena dell'iniziazione di Joe con la carta che brucia e il patto di sangue viene ripresa nel film Joe Valachi, I segreti di Cosa Nostra, diretto nel 1972 da Terence Young e interpretato da Charles Bronson. Dammi la carta. Repeat after me in the language of our fathers or otherwise in English. Così morirò. This is the way I will die. Tradisco il segreto di Cosa Nostra. If I betray the secret of the Cosa Nostra, uscirò come il fuoco dell'inferno. It will burn like the fires of hell. Se la mia lingua parlerà come Giuda. If my tongue speaks like Judas. Beh, così come la messa è in latino, i giuramenti sono in siciliano. Non è un film che ha un successo strepitoso. Lo stesso Peter Maas, giornalista autore della biografia di Joe Valachi, La mela marcia, The Valachi Paper, rivela di aver avuto non pochi problemi a pubblicare il suo libro. Si dice che le storie di mafia non interessano e non possono avere grande successo. Beh, a smentire clamorosamente questa affermazione arriva un altro film sulla mafia che diventa uno dei più grandi successi della cinematografia mondiale di tutti i tempi, Il padrino di Francis Ford Coppola, tratto dal romanzo omonimo di Mario Puzo. Allora siamo d'accordo. Il traffico della droga sarà permesso ma controllato. Don Corleone ci darà la sua protezione qui nell'est e ci sarà la pace. Ma io devo avere una garanzia sicura da Corleone. Mettiamo che col tempo la sua posizione diventa più forte. Chi mi dice che non tenderà una vendetta personale? Io non voglio vendicare mio figlio ucciso. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di Sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete? E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia o se lo trovassero impiccato nella sua cella e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, ve prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi. Questo è un grande Marlon Brando che attraverso la finzione racconta fatti reali. I film sulla mafia, così come i libri che trattano questo argomento, iniziano a diventare un filone seguitissimo negli anni 70, anche perché le indicazioni fornite da Joe Valachi sono molto dettagliate e precise. E queste dichiarazioni iniziano a avere i loro primi effetti, diventano familiari i nomi di spicco del sindacato del crimine statunitense e quelli dei capi delle cinque famiglie mafiose di New York: Lucky Luciano, Gaetano Gagliano, Joseph Profaci, Joseph Bonanno e Vincent Mangano. In seguito alla testimonianza del primo collaboratore di giustizia della storia, il Congresso è in grado di vagliare nuove norme di repressione del racket. Vengono inaugurate nuove tecniche di investigazione, tra cui le famose intercettazioni ambientali e telefoniche, e si dà il via alle indagini degli anni futuri anche in Italia, come la famosa Pizza Connection, coordinata da un giovane Giovanni Falcone. Joe Valachi, dopo le audizioni, viene trasferito nel carcere di Latuna in una cella di massima sicurezza che viene soprannominata The Valachi Suite. Nel 1971, colui che rompe per primo il muro dell'omertà nella storia della mafia muore di infarto in cella, senza aver ottenuto la libertà. Quella libertà che sperava di essersi guadagnato con le sue dichiarazioni. Due anni dopo lo segue anche Vito Genovese, che muore senza essere riuscito a pagare la taglia dei $100,000 messa sulla testa del suo nemico. Una taglia che non è mai stata incassata. Non so se si possa considerare un colpo d'ala quello compiuto da Joe Valachi, che non ha certo volato in alto, ma ha fatto qualcosa che ha lasciato il segno, e quindi questa è una storia che valeva la pena di raccontare. E se avete delle storie che volete che noi raccontiamo, scriveteci per esesempio al falcoilgabbiano@radio24.it. insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.